Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu. Sia glorificato Allah, sia lodato Allah, non c'è divinità tranne Allah. Wallahu akbaru wa la hawla wa la quwwata illa billahi l'aliyyul azim. Allah è il più grande, non c'è potenza né forza se non per grazia di Allah, l'Altissimo, il Sublime.